Perdonami se ti amo ancora, se oggi qui da te torna a mani giunte, da quando solamente ombre, da quando ho perso te io non posseggo niente, niente.